Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Torino, Stadio Comunale, 8 settembre 1988. Il pubblico stipato all'interno del simbolo del calcio torinese prestato per un giorno alla musica leggera non sembra gradire l'esibizione del cantante sul palco. Eppure stiamo parlando di uno dei simboli della musica italiana, uno di quei pochi ad essere riuscito a vendere milioni di dischi in quasi 20 anni di carriera. Stiamo parlando del grandissimo Claudio Baglioni, che con le sue canzoni ha fatto innamorare milioni di italiani. Eppure sembra proprio che il cantautore romano non c'entri niente con il concerto che si sta svolgendo. Human Rights Now, questo è il nome della manifestazione musicale organizzata per raccogliere i fondi a favore di Amnesty International e alla quale partecipano artisti del calibro di Bruce Springsteen, Sting, Tracy Chapman. Il pubblico fischia, considera Claudio Baglioni un cantante troppo sdolcinato e malinconico per essere lì. Claudio però è abituato a stare sul palco e sembra non accorgersi dei fischi che arrivano dal pubblico e continua a cantare. Sì, perché Claudio Baglioni la voglia di stare sul palco ce l'ha da quando è nato. Da quando tra i quartieri di Montesacro e Centocelle comincia a bazzicare tutte le rassegne canore in cerca di notorietà. Nascosto dietro un paio di spessi occhiali e un maglione che gli conferisce un'aria da intellettuale, in realtà si guadagna un soprannome non proprio esaltante. I suoi amici infatti lo chiamano Agonia, come ci ricorda Paola Massari, che di Baglioni è stata moglie e musa ispiratrice. Io l'ho conosciuto un pochino dopo e devo dire che non era affatto Agonia, ma era veramente un bel ragazzo. Agonia perché era un ragazzo introverso e triste, e nel bar che frequentava, che era il bar di periferia, dove ci sono personaggi colorati, forse molto più vivaci di lui, probabilmente risaltava ancora di più questo suo essere così introverso e chiuso. Claudio non è allegro e fanfarone come ci si potrebbe aspettare da un giovane ragazzino dei quartieri della periferia di Roma. Claudio ama starsene in disparte, a osservare il mondo con occhio critico, per riuscire a cogliere le mille sfumature della realtà. Questa sua capacità di raccontare le cose di tutti i giorni, Baglioni è riuscito a trasformarla in canzoni, in testi pieni di poesia e melodie che sono diventate parte integrante della musica italiana. Signora Lia, stasera piangerai da sola. Gli hai negato anche il tuo cuore senza una parola. Ora che vorresti che parlasse un po' con te, lui legge il giornale. È il destino dei cantautori soffrire interiormente per poter esprimere al 100% i propri sentimenti. In questo caso le canzoni non sono delle banali successioni di note con un testo divertente e facile da ricordare, sono lo specchio della propria personalità e riflettono i pregi e i difetti dell'autore con le sue angosce e le sue paure. Siamo nel 1965, quando a soli 14 anni Claudio si iscrive al Festival degli Sconosciuti di Ariccia, a cui partecipa interpretando Georgia on My Mind di Ray Charles. È proprio in questa occasione che Claudio Baglioni incontra un altro grande esponente della musica leggera italiana, Teddy Reno. È lui il primo magnifico destino che fa crescere artisticamente questo ragazzino taciturno che nasconde il cuore di un poeta. Mi farò prestare un soldino di sole perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sui biondi capelli, quella nube d'oro accarezzerò. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà. Teddy Reno è un cantante e un discografico molto importante. Dopo aver portato al successo brani come Che Lalla e Piccolissima Serenata, fonda la CGD, Compagnia Generale del Disco, la casa discografica milanese che ha lanciato tra gli altri Johnny Dorelli. Dal 1962 organizza ad Ariccia il Festival degli Sconosciuti, che nella prima edizione viene vinto proprio dalla cantante che poi diventa sua inseparabile compagna per tutta la vita, Rita Pavone. Quando Claudio Baglioni si esibisce cantando una canzone di Ray Charles, Teddy Reno ha qualche perplessità, come lui stesso ci racconta. Questo giovanotto si era presentato, era un romano, e si è presentato cantando in inglese alla maniera di Ray Charles. Io gli ho detto, scusa, tu sei romano, di Roma, italiano, e vieni a fare un provino con Georgia eccetera. Dico, al massimo ti posso dire che lo fai bene, però non hai un futuro. Insomma, è venuto nel 66 ed è stato scartato perché imitava Ray Charles, il romano di Roma. Teddy Reno è un talent scout, sa riconoscere al primo sguardo un potenziale successo, e quel ragazzino così acerbo ma dotato di una grande voce gli sembra diverso da tutti gli altri. Ecco perché decide di dargli i consigli giusti per migliorarsi. È tornato nel 67, gli ho fatto fare una canzone, abbiamo la foto con lui insieme con Rita, ha fatto la prima trasmissione televisiva in senso assoluto, e l'anno dopo è tornato e ha vinto per la categoria cantautori. L'incontro con Teddy Reno è uno di quei momenti che cambiano la vita di un ragazzino che cerca la sua strada nel mondo della musica. Dopo aver bazzicato i bar e i locali della periferia di Roma, dopo aver partecipato a feste, sagre paesane, festival improbabili senza alcun significato, forse sembra arrivato il momento giusto. Finalmente sembra accadere ciò che ogni cantante in erba sogna: essere preso in considerazione da un esperto, da uno famoso, capace di credere nelle potenzialità di uno sconosciuto. De Paris. Proprio nel momento in cui è così facile rinunciare ai propri sogni per inseguire, magari sotto l'influenza dei genitori a volte troppo presenti, progetti più sicuri ma meno gratificanti, ecco che si presenta l'occasione della vita. E Claudio non vuole lasciarsela scappare. Mi piace, tutto sommato, io sono partito come timidissimo. L'ho detto che il primo volo che ho fatto è stato alzare gli occhi e guardare, ecco, in faccia qualcuno, e poi magari poi il cielo. Quello è stato il primo volo. Bonjour la France. Imparare a volare, imparare a cavarsela da soli cercando di imporre il proprio stile di vita, i propri pensieri, il proprio modo di affrontare il mondo e la vita con i suoi alti, con i suoi bassi. Questo è quello che il ragazzino taciturno dalla voce potente vuole fare, e per questo prende il coraggio a due mani e si ripresenta ancora una volta per il terzo anno consecutivo da Teddy Reno, ma questa volta non solo per cantare. Poi ha scritto una canzoncina che mi è piaciuta, l'ho portata in Francia, e in Italia si chiamava La Suggestione, e invece in Francia Bonjour la France. Venduto 800.000 dischi in 4 mesi. Suggestione è durata poco, ma mi ha lasciato per gioco che ho giocato una notte tra cose non dette col cuore che batte. Un gioco che mi è piaciuto, ma il tempo è scaduto e non torna mai più. Claudio Baglioni ha incontrato il primo magnifico destino che ha lasciato un profondo segno nella sua carriera, Teddy Reno. Il giovane cantante comincia così a intraprendere la doppia attività di cantante e autore. Claudio è molto giovane e il padre, sottufficiale dei Carabinieri, è preoccupato per il futuro del figlio. Di queste preoccupazioni ne parla anche con Teddy Reno, che lo rassicura, promettendogli dei buoni contratti per lo sviluppo della sua carriera. Se non viene fuori con la Ricordi, che era la casa che ci sponsorizza, mi impegno di rompere il contratto e ti presento all'RCA e vai avanti per conto tuo. E così è stato. Se io non lo liberavo dal contratto con me, col cavolo sarebbe diventato Claudio Baglioni. È giovanissimo quando ottiene il suo primo contratto con la RCA, tant'è che, essendo ancora minorenne, non può firmare in prima persona i documenti che invece vengono firmati dal padre. Con una casa discografica alle spalle, si potrebbe pensare che ormai per Claudio Baglioni sia un gioco da ragazzi emergere e imporsi nel panorama musicale italiano. In realtà le cose sono un po' più difficili. Gli anni 70 sono gli anni della contestazione, dell'impegno politico, delle cariche della polizia, della rivoluzione giovanile. Un cantautore che parla solo di buoni sentimenti e amore sembra fuori posto all'interno di una società che invece vuole testi impegnati e meno frivoli. Ecco perché la canzone Notte di Natale, secondo 45 giri di Baglioni, viene considerata troppo triste e convenzionale e per questo ignorata dal pubblico. Claudio scrive per sé, scrive per altri cantanti. Mia Martini, Rita Pavone, nel 1972 interpreta tre brani nella colonna sonora del film Fratello Sole e Sorella Luna di Franco Zeffirelli. Ha dato il cielo e le chiare stelle, Fratello Sole e Sorella Luna. Claudio Baglioni non vuole cambiare il suo modo di essere e di raccontare quello che si porta dentro. Le contestazioni le lascia a De Gregori, a Venditti. Lui preferisce continuare a parlare d'amore. Poi l'amore ha veramente tantissime facce, si trasforma, una capacità così integrata. È un po' come una partitura musicale. Ha talmente tanti suoni e tante parole l'amore che ti stordisce. Siamo a pochi mesi dal suo primo grande successo. Claudio Baglioni ha due grandi amori. Il primo è un'automobile, la mitica Camilla, una Citroën due cavalli gialla che conosce la notorietà per essere stata immortalata in una copertina di un suo album. Il secondo amore è una bellissima ragazza dai lunghi capelli biondi che Claudio incontra nel 1971 e che meno di due anni dopo diventa sua moglie, Paola Massari. È per lei che Baglioni scrive una canzone d'amore, descrivendo la maglietta fina che indossa il giorno del loro primo appuntamento. La canzone è Questo piccolo grande amore, che Baglioni scrive nel 1972. Il primo ad ascoltare questo personale regalo alla sua futura moglie è il secondo magnifico destino di oggi. Un uomo che ha gestito le fasi iniziali della carriera di Claudio Baglioni e che ha collaborato con lui per molti anni come autore, come produttore, come amico. Antonio Coggio. Quella sua maglietta fina, stretta al punto che immaginavo tutto. Antonio Coggio è nato a Savona e inizia la carriera di musicista come tastierista di Gino Paoli. Poi, nel 1966, diventa assistente musicale della RCA, la casa discografica italiana per la quale incidono i più importanti cantanti italiani. Il principale compito di Coggio all'interno della RCA è di seguire gli artisti sotto contratto e contemporaneamente di trovare nuovi talenti da lanciare sul mercato discografico. Ecco perché Coggio viene a sapere da un collaboratore di Teddy Reno che un ragazzino molto promettente ha partecipato al Festival degli Sconosciuti di Ariccia. E chiare sere d'estate, il mare, i giochi, le fate, la paura e la voglia. Quando ascolta il provino cantato e suonato da Baglioni in un ufficio della RCA, nella sede di Via Tiburtina, Antonio Coggio capisce subito di avere per le mani una canzone che può diventare un grandissimo successo. È una canzone semplice, orecchiabile, ma con un testo molto bello, non banale. Ti amo davvero, ti amo, lo giuro, ti amo davvero. Certo. Bisogna fare i conti con la censura dell'epoca, perché alcune frasi sono ancora troppo forti per un pubblico non certo smaliziato come quello odierno. Ecco che quindi, su consiglio di Coggio, la voglia di essere nudi diventa di essere soli, e altre piccole correzioni al testo originale permettono alla canzone di uscire nei negozi. La canzone diventa in pochissimo tempo un successo e vende 900.000 copie, rimanendo prima in classifica per 13 settimane. Antonio Coggio ha il pregio di avere riconosciuto in una semplice ballata uno dei più grandi successi italiani di tutti i tempi e ora ha la possibilità di gestire e valorizzare l'astro nascente della musica romantica italiana in contrapposizione al gruppo di cantautori impegnati tra cui primeggia Francesco De Gregori che invece riflette le tensioni sociopolitiche dei giovani degli anni 70. Dopo il successo di questo piccolo grande amore per Claudio Baglioni, inizia un periodo di grande successo. La collaborazione con Antonio Coggio non si limita alla gestione discografica del cantautore romano, ma si sviluppa anche a livello autoriale. I due infatti iniziano a collaborare da subito a tutti i brani e Coggio è coautore di buona parte dei principali successi di Baglioni. Quando nel 72 esce il primo album che porta lo stesso titolo del primo grande successo, Baglioni e Coggio lo strutturano come un concept album, ossia un insieme di canzoni che ruotano attorno a un medesimo tema e lo sviluppano come se fossero parte di una sceneggiatura cinematografica. È un'assoluta novità per l'epoca. Riscuote immediatamente un grande successo, come lo stesso Baglioni racconta ai microfoni di Sky. Addirittura il mio primo disco di vero successo che è stato questo piccolo grande amore, venne scritto inizialmente proprio come se fosse la sceneggiatura di un film. Qualcuno ha detto di me che sono stato, specialmente negli album che ho fatto negli anni 70 e negli anni 80, uno degli scrittori di canzoni più vicini al cinema, nel senso che avevo lo stesso linguaggio che spesso ha un cineasta, quindi un regista e un direttore di film. Uno dopo l'altro vengono pubblicati i più grandi successi di Claudio Baglioni. Viva l'Inghilterra, Amore Bello, A Modo Mio, tutte canzoni ai cui testi collabora Antonio Coggio. I due oramai formano una coppia inossidabile e i risultati si vedono. I dischi vengono prodotti all'estero. Iniziano le collaborazioni con i grandi musicisti come Vangelis e Luis Bacalov, che con i loro arrangiamenti danno un tocco più internazionale alle canzoni di Baglioni. Lui, da parte sua, continua a coltivare la passione per ciò che più desidera, raccontare l'amore in tutte le sue forme, lasciando uscire dal suo cuore le sensazioni e i sentimenti che riempiono la vita di tutti i giorni. Accoccolati ad ascoltare il mare, quanto tempo siamo stati senza fiatare. Oggi stiamo rivivendo il magnifico destino di Claudio Baglioni, uno dei pochi cantautori italiani che ha saputo unire generazioni diverse attraverso una carriera di oltre 40 anni. Poster è un altro grande successo firmato in collaborazione con Antonio Coggio, il paroliere dei primi album di Baglioni, colui che è riuscito a trasformare un giovane introverso e riservato nell'idolo di milioni di ragazzine. Quello del cantautore è un mestiere difficile. Per scrivere una bella canzone non basta sedersi a un pianoforte o prendere una chitarra e suonare. La melodia deve nascere dal cuore, dalla vita stessa, con tutte le sue esperienze, le sue mille sfaccettature. Ancor più difficile è scrivere un testo, che deve fotografare un momento da raccontare e trasformarlo in poesia. Per la musica è più semplice perché la musica mi riesce anche nei momenti in cui cammino, nuoto, non so, penso, cioè c'è qualcosa, la musica è sempre, gira sempre intorno, come dice qualche mio collega, e bisogna certe volte, come ho scritto io, solo allungare la mano e afferrare questa sensazione musicale e cercare di metterla giù. È un'alchimia molto misteriosa, piacevolissima. A me piace veramente scrivere musica, mentre poi mi addanno a scrivere le parole, perché invece le parole hanno un senso compiuto e allora è più determinativo, è troppo importante scrivere delle parole. La musica invece è un gioco, è come il mare, insomma, ti gira appunto, ti lambisce, ti accarezza, è un'altra storia. Nel periodo che va dal 1972 al 1975, Claudio Baglioni, sempre con la collaborazione di Antonio Coggio che rifinisce e perfeziona i testi, attraversa un periodo di grande successo, pubblicando 4 album e vendendo complessivamente quasi 4 milioni di dischi. Con il passaggio alla CBS, con la quale Claudio firma un contratto miliardario, termina anche la collaborazione con Antonio Coggio, ma non finisce la carriera di Claudio Baglioni. Anzi, per il cantautore romano inizia un periodo estremamente positivo, con nuovi grandi successi. Al suo fianco c'è la moglie Paola, la musa ispiratrice di tante canzoni. Il fatto curioso è che io ho sempre pensato che l'ispirazione non esista. Però ammesso che invece ci sia, è bene che ti trovi al lavoro, per cui questo è un lavoro che bisogna fare come tutti gli altri, lavorando un tot di ore al giorno, a volte anche tutta la notte. A me per esempio piace lavorare la notte perché ho la sensazione di essere come la sentinella, uno che lavora mentre gli altri stanno dormendo, quindi una specie di il fornaio della musica, insomma quello che prepara il pane per tutti quelli che avranno fame il giorno dopo. Notte di notte, notte di notte. Col rumore della terra che gira, i fornai che fanno il pane di domani. Gli anni 80 sono gli anni in cui Baglioni recupera la sua prima grande passione, quella per i concerti, in cui riesce a tessere un filo invisibile che lo unisce a quelle decine di migliaia di persone che affollano gli stadi per cantare insieme a lui i suoi più grandi successi. E sono gli anni in cui l'amore che ama descrivere nelle sue canzoni gli regala un dono veramente speciale. Un figlio, Giovanni, per il quale scrive una delle sue canzoni più belle. Avrai sorrisi sul tuo viso, come ad agosto grilli e stelle, storie fotografate dentro un album, rilegato in pelle, tuoni di aerei supersonici. Fanno alzar la testa e il buio all'alba che si fa d'argento alla finestra. Avrai un telefono. Quando nel 1986 esce l'album La vita è adesso, i record di vendita degli album precedenti sembrano scomparire. Il disco vende 1.200.000 copie nei primi 6 mesi, rimanendo in classifica per un anno e mezzo. Claudio è veramente diventato un big della musica italiana e quindi l'ansia di vendite di un disco sembra non essere la sua priorità. La classifica sì è importante perché comunque è la prima misurazione, nel senso che chiaramente un disco che esce e di cui non sa più niente vuol dire che non è stato e che non sarà un grande successo. Però al di là dei numeri, al di là dei fenomeni, insomma io ne ho fatti talmente tanti dischi, ne ho venduti per mia fortuna anche tantissimi, non solo in Italia ma anche in molti altri paesi del mondo, e mi sembra che oggi come oggi sia quasi un rapporto tra me e le cose che faccio, che sia importante, e poi anche la gratificazione degli altri, ma si capisce se una cosa entra veramente nel cuore o se rimane solamente nella superficie. Sono tante le esibizioni dal vivo di Claudio Baglioni improvvisate per le vie di Roma, da un balcone, su un autobus, in metropolitana, senza preavviso, per il solo gusto di avere un contatto con il suo pubblico. Nei concerti Claudio si sente a casa sua, perché si sente circondato da persone che apprezzano ciò che fa e instaurano una magica alchimia che crea uno scambio reciproco di emozioni. Rimane storico il suo tour A Solo, durante il quale Baglioni affronta i concerti e il suo pubblico da solo, introducendo nelle esibizioni dal vivo la tecnologia MIDI che si basa sull'utilizzo di parti pre-registrate riprodotte con l'utilizzo di tastiere e che permettono al cantante romano di cantare e suonare le sue canzoni senza l'aiuto di nessun altro musicista. Ma proprio quando meno te lo aspetti, il destino è pronto a giocarti qualche brutto scherzo. E così, nel 1988, Claudio viene invitato a esibirsi al mega concerto Human Rights Now, organizzato per raccogliere fondi per Amnesty International. Uno dei principali promotori di questo concerto è Peter Gabriel. È lui, il terzo magnifico destino di oggi. L'organizzazione di un concerto sulla difesa dei diritti umani era necessaria. In troppe parti del mondo esistono situazioni in cui il diritto alla vita, e calpestato. Uomini senza scrupoli che inseguono solo la loro personale sete di potere. Peter Gabriel è un cantante poliedrico. Già ai tempi dei Genesis la sua forte personalità prende talmente forza all'interno del gruppo da provocarne la sua fuoriuscita. È un artista completo, con un rapporto di odio-amore con il pubblico. Se da un lato infatti ama esibirsi e liberare completamente la sua anima da ogni inibizione, ha paura di quello stesso pubblico che lo applaude e per questo utilizza fantasmagorici e colorati travestimenti, come un clown che si nasconde dietro a una maschera. Ognuno di noi recita una parte nella vita di tutti i giorni. Voglio dire, il travestimento è il miglior modo per nascondersi, per combattere le proprie paure. La carriera solista di Peter Gabriel esplode nel 1986, quando il singolo Sledgehammer scala le classifiche di tutto il mondo. Il successo della canzone si deve anche all'innovativo video musicale, frutto della continua ricerca da parte di Gabriel di utilizzare nuove tecnologie per stupire il pubblico. I magnifici destini di oggi vi sta raccontando la splendida carriera di uno dei maggiori esponenti della musica leggera italiana, Claudio Baglioni. Abbiamo incontrato due magnifici destini che hanno contribuito a questa carriera. Il terzo, invece, Peter Gabriel, ha un significato diverso nella vita del cantautore romano. Per capirlo, bisogna tornare al punto da cui siamo partiti. Torino, 8 settembre 1988. Allo Stadio Comunale di Torino, Claudio Baglioni si sta esibendo nel concerto Human Rights Now, organizzato da Amnesty International. Il concerto fa parte di un tour di 20 date in tutto il mondo, a cui partecipano Bruce Springsteen, Sting, Peter Gabriel, Tracy Chapman e Yus Sundur. A questi, in ogni data, si aggiunge un cantante locale di pari importanza. Per il concerto di Torino c'è Claudio Baglioni, con cui lo stesso Gabriel ha iniziato a collaborare. Io e Claudio ci conoscevamo già ai tempi del concerto. Claudio stava lavorando al suo nuovo disco e aveva registrato alcune parti agli studi Real World. Quando fu organizzata la data di Torino, fui felice che ci fosse anche lui. Voglio dire, a parte lui, non conoscevo altri cantanti italiani e sapevo che era molto bravo. Ma il pubblico di Torino ha riservato a Claudio Baglioni un'accoglienza che certo non si aspetta. Ancora deve iniziare a cantare e già viene bersagliato da cori da stadio che non lasciano spazio ai sottintesi. Claudio, davvero professionista, inizia il suo spettacolo, ma sul palco cominciano a volare bottiglie, lattine e altri oggetti. La contestazione riguarda il fatto che Baglioni non ha mai fatto parte del gruppo di cantautori politicamente impegnati. Lui è quello delle canzonette da spiaggia, da suonare alla chitarra attorno a un falò. Che senso ha adesso averlo lì a combattere per la difesa dei diritti umani? Era un momento veramente imbarazzante. Il pubblico fischiava, lanciava di tutto sul palco. Allora ho pensato che se fossi salito a cantare insieme a lui, forse avrebbero smesso. Peter Gabriel, viste le intemperanze del pubblico, decide di entrare in scena e mentre Baglioni canta la sua Ninna Nanna, si siede accanto a lui e duetta, improvvisando i cori della canzone. Due uomini che vivono un difficile rapporto col pubblico stanno in questo momento combattendo insieme una battaglia contro le loro paure. La gente che fino a quel momento ha lanciato di tutto sul palco si tranquillizza e permette ai due di concludere la canzone. Claudio Baglioni si sente tradito dal suo pubblico. Quel pubblico che per anni lo ha sostenuto e applaudito, a volte osannato, oggi gli volta le spalle. I tempi cambiano, è vero, ma queste contestazioni avrebbero avuto più senso negli anni 70, quando le tensioni sociali erano più forti, non sul finire degli anni 80. Dopo 15 anni di carriera, improvvisamente, Claudio Baglioni si sente solo. La vita adesso è il vecchio albergo della terra. stanza in una storia di mattini più leggeri e cieli, smarginati di speranza e di silenzi da ascoltare, e ti sorprenderai a cantare, ma non sai perché. Dopo il concerto di Torino, Claudio Baglioni abbandona le scene e si mette a lavorare esclusivamente sul disco. Anche se la versione ufficiale giustifica il cantautore romano con l'attività di preparazione del disco, in realtà Claudio vive un momento di grande cambiamento artistico e personale. La separazione dalla moglie e la paura di affrontare quel pubblico che per anni lo ha applaudito, ma che tutt'a un tratto gli ha girato le spalle, portano Baglioni a un profondo cambiamento nel modo di scrivere le canzoni. I dischi degli anni 90 hanno contenuti più intimisti e spesso questa ricerca di presentarsi come un cantante più serio del passato non fa altro che produrre testi ingarbugliati che lasciano perplessi i critici musicali. Il primo disco dopo il concerto di Torino, intitolato Oltre, viene registrato negli studi di Peter Gabriel ed è forte l'influenza che il cantante inglese porta nel disco, con sonorità etniche ed arrangiamenti più complessi. Dove sono stato in tutti questi anni? Io me n'ero andato a lavarmi i panni dagli inganni del successo, a riscoprirmi uomo, io sempre lo stesso, più grigio ma non dormo. Gli anni 90 sono un susseguirsi di album dal vivo in cui Baglioni ripropone i grandi successi del passato con nuove sonorità e talvolta nuovi arrangiamenti. La ricerca spasmodica della perfezione e il recupero della fiducia in se stesso e nel proprio lavoro sono il tema dominante di tutto questo periodo. Con la fiducia in se stesso, Claudio recupera anche l'affetto del pubblico e ricomincia ad avvicinarsi alla televisione, da cui per molto tempo si è tenuto alla larga. Lo fa con Fabio Fazio, che lo porta a scherzare sul suo personaggio di cantautore, facendogli interpretare persino le sigle dei cartoni animati. Claudio Baglioni, nel programma Anima Mia, si prende in giro e recupera il gradimento del pubblico, che non si aspetta un personaggio così capace di autoironia. No, signor Ulf, dottore Incredibile Ulf. Dottore Incredibile Ulf. Ecco. Potrebbe farmi un autografo? Un autografo, Baglioni chiede l'autografo! Ma si è scherzato. Si è rotta la matita! Questo è l'autografo di Hulk, dai, per te! Un bacino! Un bel Baglioni, bacia Hulk! Grazie! Oggi Claudio Baglioni continua la sua carriera alternando l'attività di cantante con quella di organizzatore del festival di Lampedusa OSHA, nel quale, oltre a dare spazio a nuovi talenti, contribuisce alla sensibilizzazione del problema dell'immigrazione clandestina. Claudio ha ritrovato se stesso e riesce anche a parlare del proprio successo non rinnegando nulla del passato, compresi gli errori. Credo il privilegio di questo mestiere, il successo vero, è che innanzitutto non si diventa mai completamente grandi, è anche una dannazione però. E poi si continua a sognare, specialmente attraverso la musica, l'idea di fantasticare i progetti, di metterli uno dietro l'altro. Alcuni anni fa io sono entrato in crisi e ho detto: ma si potrà sempre scrivere una canzone cercando di migliorarla? Ma quando, anche con un po' di senso della dismisura, ti spintoni un po' e cerchi anche dei nuovi territori, allora lì trovi veramente entusiasmo e soddisfazione. Io ho la fortuna di sognare ancora. Io ed i miei occhi scuri siamo diventati grandi insieme, con l'anima smaniosa a chiedere di un posto che non c'è. Tra mille mattini freschi di biciclette, mille più tramonti dietro i fili del tram, ed una fame di sorrisi e braccia intorno a me.